Fires, un programma di blues tradizionale contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Blues Fires numero 76. Anche questa, come le ultime puntate di questi ultimi due o tre mesi, è dedicata anche alle uscite dell'anno in corso, quindi proprio delle ultimissime uscite internazionali. E partiamo subito, a proposito di uscite del 2011, con The Shutter Dogs, che hanno appena pubblicato un CD intitolato Better Days, dal quale noi ci ascolteremo Dark Moon. Buon ascolto quindi con The Shutter Dogs. There's a dark moon on the rise tonight. Cool. ci siamo ascoltati The Shutter Dogs, questo gruppo molto compatto, grintoso, con questa bella voce solista e bello anche l'assolo di chitarra che ha accompagnato la performance vocale. Il pezzo era intitolato Dark Moon, una composizione originale tratta dal CD Better Days, The Shutter Dogs, un CD questo Better Days pubblicato proprio quest'anno. E adesso, sempre per continuare, ve l'ho detto, la puntata parte un pezzo solo, credo, uno o due pezzi, sono tutte novità di quest'anno. Continuiamo con le novità di quest'anno e andiamoci ad ascoltare Tony Holiday and the Velvetones, un bel CD questo, No Need to Rush It, dal quale noi potremo ascoltare una composizione originale intitolata Dirtbag Blues. Buon ascolto quindi con Tony Holiday and the Velvetones. Oh, my mind when you're home. About going out later. Yeah, I think about going out and doing something wrong. Questa era la musica di Tony Holiday and the Velvetones, un musicista Tony Holiday capace di interpretare con grande sensibilità pezzi che ci riportano alla grande tradizione del blues. Sempre molto intense sia le performance vocali che quelle strumentali, e c'è una bella complicità di gruppo. Tony Holiday and the Velvetones ci hanno presentato Dirtbag Blues, tratto dal CD No Need to Rush It, pubblicato proprio quest'anno. Lasciamo Tony Holiday and the Velvetones e andiamo ad ascoltare un disco che è uscito per la Alligator Records nel 2014, dedicato a Lonnie Mack, The Best Of, quindi c'è una raccolta dei migliori pezzi della carriera di Lonnie Mack in questo disco. Stasera noi ci ascolteremo Cincinnati Jail. Buon ascolto quindi con la voce e la musica di Lonnie Mack. Walking across the street and call. said 20,000 bond. Son, you are the bad guy. The good guy was a gun. They put me in a cell with steel for my bed. I shoot for a pillow and my legs still full of lead. Yeah. E questo era Lonnie Mack, il cantante di 71 anni americano, cantante e chitarrista, al quale la Alligator Records ha voluto dedicare questo CD con i migliori successi. The Best of Lonnie Mack ci ha fatto ascoltare Cincinnati Jail con la sua tipica grinta vocale, e anche i suoi assoli sono personalizzati. Dopo Lonnie Mack, una presenza interessante dal Messico, tra l'altro quando venni a conoscenza del nome di questo gruppo, Tito e Tarantula, pensai di trovarmi di fronte a un gruppo italiano che magari era temporaneamente o in modo definitivo in attività all'estero, che però portava dentro nel cuore, insomma, la propria terra. Uno pensa sempre alla Taranta, i Tarantolati, e quindi pensa alla terra di Puglia, e pensavo che ci fosse un connubio tra il blues e la tradizione casalinga di origine pugliese. Sicché ho ascoltato con molto interesse, però sentivo che non c'era nessun aggancio particolare, perché sono sempre interessato anche alle novità, quindi anche alle fusioni del blues con altri generi, così come avviene spessissimo nel jazz, dove la musica di base, l'improvvisazione di base del jazz spesso viene fusa con musica etnica, con musica classica, con musica rock, con musica pop, eccetera. E quindi sono sempre interessato anche ad ascoltare del blues che in qualche modo cerca di aprirsi ad altre espressioni musicali. Invece poi ho sentito che non c'era nessun collegamento con la musica folk pugliese della Taranta, eccetera eccetera, e sono andato a fare una ricerca, e questo gruppo non ha niente a che vedere con l'Italia, è un gruppo messicano, e quindi il nome Tarantula è legata proprio alla tarantola in generale e non alle nostre tradizioni musicali e folcloristiche. Tito e Tarantula, gruppo messicano, ha realizzato quest'anno un disco intitolato Lost Tarantism, e da questo CD noi ci andremo ad ascoltare Damn Good Day to Die. Buon ascolto quindi con Tito e Tarantula. your jelly roll is holy bliss. So much beauty on day like this. So many lips that I've kissed, but not like yours and not like this. It's a good day. Damn good day to die. Yes, it's a good day. Questa era la musica del gruppo Tito e Tarantula, gruppo messicano che ha realizzato quest'anno questo CD intitolato Lost Tarantism, dal quale abbiamo ascoltato una composizione originale intitolata Damn Good Day to Die. E beh, Tito e Tarantula hanno questa pastosità di gruppo piuttosto interessante, coinvolgente, una bella voce particolare con una sua identità e interessanti anche le performance tecniche. Tito e Tarantula dal CD Lost Tarantism con Damn Good Day to Die. E adesso un italo-americano, Tony Rondini, che dal CD che ha pubblicato proprio quest'anno intitolato No Use for the Blues ci farà ascoltare Close to You. Buon ascolto con Tony Rondini. Along the Seine, been to Rome and Florence. That kind of beauty is hard to explain. But there's nothing that comes close to being close to you. The aroma of a country bouquet and the fine Italian wine, the rawness of a bustling city. But when I'm with you, it seems just fine. There's nothing that comes close to being close to you. Chirping birds of Syracuse, the soft sound of raindrops in the sand, ocean waves of Amalfi, and the church brass band as we walk hand in hand. All of these things remind me of being close to you. Thank you. Questo era Tony Rondini, valido chitarrista e vocalist, che ha realizzato questo CD intitolato No Use for the Blues, dal quale noi ci siamo ascoltati Close to You. Musicista capace di belle performance chitarristiche, valido anche come cantante, con una band piuttosto forte, serrata, che lo segue con grande passione nelle sue composizioni, nei suoi ritmi. Tony Rondini con No Use for the Blues è arrivato a farsi conoscere anche fuori dai suoi confini e comincia ad essere un nome già di rilievo anche a livello internazionale. Adesso con le pubblicazioni di quest'anno andiamo a conoscere un altro gruppo, Victor Wainwright and the Wild Roots, che anche loro quest'anno hanno pubblicato un nuovo album intitolato Boomtown, e uno tra i pezzi che mi ha colpito maggiormente è questo Genuine Southern Hospitality. Victor Wainwright and the Wild Roots. Buon ascolto. Cooking cornbread and butter beans. The kids are on the porch watching Daddy turn the peach ice cream. Smiles on the faces of family and the friends I love. Steep in tradition and blessed by the love. Yourself a seat, join hands, say your prayers, give thanks, it's time to leave. Y'all come on, have a heap of heaven, southern hospitality. Pan fried genuine southern hospitality. Y'all make yourself at home. Up yonder, near the old tapestry, there's a party going on back in the woods, and they don't close till 3:30. Meet me out back, we'll have a pull on the big brown jug. Put on your dancing shoes, we're bound to burn a hole. Blues highway. moving down the track. It's times like these that keep me coming back. To have a heaping helping of Southern hospitality. Hospitality. That's right. Questa era la musica interessante e gradevole di Victor Wainwright and the Wild Roots, il CD pubblicato proprio fresco fresco quest'anno, intitolato Boomtown, dal quale ci siamo ascoltati Genuine Southern Hospitality. Un gruppo, quello di Victor Wainwright and the Wild Roots, che ha un organico piuttosto ricco e spesso arrivano a vivere anche atmosfere del jazz degli anni 20, con una interessante fusione, una bella morbidezza di intenti e nello stesso tempo una capacità anche espressiva notevole del vocalist. Una band che si fa apprezzare per la sua genuinità, per la sua capacità tecnica e nello stesso tempo per la gioiosità d'insieme. Adesso andiamoci ad ascoltare un musicista che si chiama Barry Levinson e che anche lui quest'anno ha pubblicato un nuovo CD intitolato The Visit. Tra i vari pezzi, uno tra quelli che mi ha impressionato maggiormente è proprio quello che dà il titolo al CD, The Visit, e quindi è quello che vi farò ascoltare. Buon ascolto con Barry Levinson. Bene, questa era la musica di Barry Levinson, un band anche in questo caso, come nel caso di Victor Wainwright and the Wild Roots, una band, dicevo, piuttosto ricca, con tutta una sezione fiati che dà respiro e ampiezza alle sonorità e nello stesso tempo anche un calore di base che ci riporta alle atmosfere R&B. Barry Levinson con questa sua ricca band ci ha fatto ascoltare The Visit, una sua composizione originale tratto proprio dal CD che porta questo nome, pubblicato nel 2015 quest'anno. E adesso una particolarità: si tratta di uno dei fondatori del mitico gruppo dei Rolling Stones, Bill Wyman, che con pochissima voce, ve lo devo dire, però con intenti che poi hanno dato dei risultati, ha realizzato proprio quest'anno un CD intitolato Back to Basics, e vi voglio far ascoltare la sua composizione originale intitolata I Lost My Ring. Bill Wyman, buon ascolto. Say, give it up, out of luck, what a price to pay. I lost my ring, I never liked. Bene, questo era Bill Wyman, uno dei Rolling Stones che con la sua band, come leader di una sua band, ha realizzato questo CD intitolato Back to Basics proprio quest'anno, e ci siamo ascoltati I Lost My Ring, una composizione originale di Bill Wyman tratta proprio da questo CD. Un CD gradevole, come dicevo prima, gli intenti sono andati a buon fine perché è un disco che si ascolta veramente molto volentieri, nonostante, come avete sentito, la poca voce, però una voce che viene utilizzata bene per quello che è, senza quindi voler strafare, ma utilizzando anche questa voce roca e bassa e scarsa, con una certa espressività, con una certa intelligenza intuitiva ed espressiva. Quindi sicuramente tutto il CD è ascoltabile veramente con piacere. E adesso l'ultimo pezzo della serata. Si tratta di Bone Dog, questo gruppo che dal CD appena uscito intitolato Gun Fishing ci faranno ascoltare All the Time. Buon ascolto quindi con Bone Dog. Wise men are telling me the price. I ain't got the cash. Tell me why. E questa era la musica di Bone Dog. Bone Dog, sta band che ha chiuso la nostra puntata con Old Time, un pezzo, una loro composizione tratta dal CD Gone Fishing, un CD pubblicato proprio quest'anno, un bel blues rock con una bella interpretazione da parte del vocalist, una bella sezione ritmica che tiene vivo e pressante il tempo in tutto il pezzo. Si conclude così anche la puntata numero 76 di Blues Fires. L'invito è sempre quello alle band blues italiane di farsi vivi. Sono interessato a conoscere nuove band di blues italiano, promuoverlo nei miei programmi, quindi sia su Facebook attraverso il sito di Anima Jazz, animajazz.eu, oppure tramite i profili personali Bruno Pollacci su Facebook, oppure tramite la pagina dei miei programmi sempre su Facebook di Anima Jazz, Blues Fires e il Dubidubidù e il gruppo. È possibile contattarmi e sicuramente sarò felice di poter ricevere vostre pubblicazioni discografiche da poter promuovere nel mio programma. Con questo si conclude Blues Fires. L'appuntamento è come sempre a martedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Blues Fires.